Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Non è facile l'eredità di Chiesa, dovrei prendere questa eredità pesante. Io non sono Chiesa, io sono José Callejón. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Adesso il Genoa, che si era attenuto alle regole, farà ricorso e vorrà rigiocare la partita persa con il Napoli e qua si chiude tutto, chiudiamo baracca e burattini. Mi pare tutto molto semplice, il Napoli ha violato le regole. Il protocollo è molto chiaro, con due giocatori positivi si deve giocare, punto. Qualcuno deve spiegarmi perché la SL di Napoli ha bloccato la trasferta del Napoli, ma non quella della Salernitana, anche se con due tamponi positivi, o quella della Primavera del Napoli. Il Milan ha avuto i suoi due casi, però sono andati a giocare lo stesso le loro partite, le hanno pure vinte. E premetto anche che non sono tifoso del Milan, però complimenti a loro. Il calcio è piacevole, ma è un di più. Sono ben altre le prerogative nella vita, la gente che non ha lavoro, le scuole, eccetera. Avete ragione, a mio parere non vedo perché il buon funzionamento del campionato di calcio debba precludere il fatto di andare a scuola piuttosto che al ristorante a lavorare. WhatsApp vocali, altri ne stanno arrivando. 349-238-6666, chi sono io per privarvi del pensiero di Giuseppe Cruciani sulla vicenda? Buonasera, buongiorno, anzi buongiorno, scusa, sono abituato, altri orari. Pierluigi Pardo, mollaci un radio kit. Ma il radio kit, tanto parleremo di altro, è su Sinner e Trevisan, è uno di quei pomeriggi che fanno la storia dello sport, in un posto iconico, in un luogo magico, in un paese che spesso poi calcisticamente non solo è il nostro rivale, ma qui non c'entra niente, è semplicemente una città fantastica, un titolo, quello del Roland Garros, che è la storia del tennis mondiale. E quindi insomma è anche, devo dire, una boccata di aria fresca rispetto alle polemiche. Ma le polemiche possono essere anche divertenti. Io e Giuseppe spesso discutiamo sul nostro diverso approccio alla vita, nel senso che lui le adora, io molto meno, e sono due posizioni entrambe legittime. Sicuramente le polemiche sono divertenti, però oggi pomeriggio va in scena lo sport, va in scena a Parigi e dai è tutto. Sì. Qui vanno in scena anche altre cose. Allo stato dell'arte stiamo aspettando. Adesso ne parliamo, non è che non ne parliamo. No, ma poi parliamo anche di Sinner, di tutto questo, ci mancherebbe altro. Bah. Di Nibali che potrebbe allungare le mani sul Giro d'Italia. Ne parlate, diciamo. Ne parliamo. Voi. Noi. Tranquillo. Allo stato dell'arte stiamo aspettando l'esito dei tamponi del Napoli, la decisione del giudice sportivo, che non arriverà oggi perché è stato chiesto un supplemento di indagine, vedrai che la ripetono, che la rigiocano, secondo me. Sì. Spadafora ha confermato che il protocollo vale, Gravina in isolamento fiduciario perché ha incontrato D'Alpino che è positivo. Questo è lo stato dell'arte. Il tuo pensiero qual è? Il mio pensiero è che non c'è nulla di chiaro. Se il protocollo vale, il Napoli doveva giocare, ma in realtà poi Spadafora dice che l'ultima parola è anche dell'ASL, per cui, come al solito, soluzioni all'italiana, cioè dire non c'è nulla di certo, nulla di certo. Chissà perché le ASL territoriali, al di là del comportamento poi del Napoli in quei giorni, no? Pare che sia sotto discussione, sia sotto l'ente di ingrandimento, anche i movimenti dei giocatori del Napoli, cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, se è stata rispettata la bolla, non è stata rispettata. Al netto di tutte queste cose è chiaro che ha agito solamente l'ASL della Campania e non l'ASL della Lombardia, nel caso del Napoli e del Milan dei positivi Ibrahimovic eccetera, e non l'ASL di Bergamo, che ne so, nel caso del positivo della, dell'Atalanta, per cui altre partite si sono giocate e questa non si è giocata. A me poi del 3-0 a tavolino, posso dirti una cosa? Non importa niente, non me ne frega nulla. Penso che qualsiasi partita che venga decisa 3-0 a tavolino sia una mortificazione dello sport, dunque non faccio il tifo per questa soluzione. E sai che nel caso di Verona-Roma per me è uno scandalo che sia stato dato il 3-0 al Verona. Al limite la Roma poteva subire una multa, credo che non abbia influito in nessun modo sul risultato la, come dire, la convocazione e l'impiego di Diawara. La regolarità del campionato un po' di più. La regolarità del campionato, sì, certamente quello è un altro problema. Sulla regolarità del campionato molto di più. Per cui non faccio tifo per nessuna soluzione. Dico semplicemente che quella partita si poteva giocare tranquillamente come tutte le altre partite in situazioni di giocatori colpiti da Covid sono state giocate. Genoa-Napoli e altre partite ancora. Ci si è messa di mezzo l'ASL di Napoli, adesso rendiamo grazie all'ASL di Napoli, inginocchiamoci tutti davanti alla responsabilità dell'ASL di Napoli, perché questo passa, questo è un messaggio che vuole passare, no? L'ASL di Napoli più responsabile di altri, ebbene, fatta la volontà dell'ASL. Il Corriere della Sera, dopo ti invito a dare un'occhiata al titolo di quello che l'ASL di Napoli, tra l'altro l'ha fatto ieri anche a Radio 24, i dirigenti di delle due dice ASL. Che dovevano fare così anche le altre ASL. Esatto. E va bene, d'accordo, ci inchiniamo alla volontà dei grandi responsabili che sono l'ASL di Napoli, gli altri sono tutti meno responsabili dell'ASL di Napoli, lo dico con ironia, ma naturalmente non è così. 800 24 00 24, chiamate pure. Se è così, Pierluigi, io condivido quanto dice Giuseppe, perché insomma l'ASL di Napoli conferma che si fa così, che il protocollo non vale, mentre Spadafora dice che vale. Però dice anche che l'ASL è giusto che intervenga, cioè capisci che cioè, è una follia, no? Cioè, se domani mattina c'è un positivo in una squadra e l'ASL interviene, si blocca il campionato, cioè è normale che sia, cioè, ragazzi, trattasi di Italia, proprio. Appunto, Italia in purezza, sì. paese che noi amiamo, sì, certo, qualcuno che lo amiamo in fondo, almeno io, anche per qualche bizzarria diciamo, però sicuramente qui, ecco, è l'incertezza del diritto. In queste ore è stato detto tutto il contrario di tutto, era stato fatto un protocollo per mettere un punto, adesso la speranza, l'unica possibilità per uscirne è che si metta un punto adesso, ma era già stato messo un punto. Ma il punto adesso, scusami Pierre, ma che tutto, sì. Sì, Giuseppe, scusa, sì, tutto, sì. Ovviamente, se poi lo guardiamo con la lente della pericolosità di questa situazione, so che tu hai sul coronavirus un approccio più tranquillo, io ce l'ho più preoccupato. Quindi se lo guardiamo da questo punto di vista, tutto scompare, no? È come una canzone, musica e tutto il resto scompare. Covid, salute pubblica e tutto il resto scompare. Però da marzo, no, scusami finire, da marzo noi viviamo questa situazione e diciamo che tutte le attività umane, e il calcio è fra queste, a pieno diritto, a testa alta, senza nessun complesso di inferiorità rispetto ai ristoranti, ai cinema, alla cultura. Il calcio è parte della vita, è parte dell'economia e non si deve vergognare di niente, e come tutti i settori della vita pubblica si sta dando delle regole per provare ad andare avanti in una maniera che comunque è provvisoria, in una maniera che comunque non è il massimo, perché lo stadio è un compromesso, o se vogliamo, allora, una convivenza. Questa cosa, e dopo tre giorni questa cosa viene subito violata, allora o c'era una situazione assolutamente fuori controllo, oppure è stato fatto qualcosa che non doveva essere fatto. Ma detto questo, anch'io spero che non ci sia, non mi piace il 3-0, mi sembra, sono d'accordo con te, una mortificazione del gioco del calcio. Settimana scorsa il mondo visione, peraltro, rimettiamolo oggi, ma rimettiamolo per sempre questo punto. Sì, però scusami, del fatto che poi il Covid è chiaro che decide lui, sì, perché se sì, fra sì. 15 giorni stiamo in lockdown, chiaro, ci andiamo a casa, io gioco alla PlayStation, però scusami, scusami Carlo, posso rispondere un attimo? Sì, poi ti faccio sentire un audio. Quando Pier dice rimettiamoci intorno a un tavolo per l'ennesima volta, come se fosse difficile mettersi intorno a un tavolo, e decidiamo altre regole, innanzitutto alcune regole di base c'erano anche prima, ed erano quelle che al massimo con 10 giocatori si giocava al pallone. Vogliamo rivedere questo, ma rivediamolo, cioè non violando qualche cosa che già c'era, primo, perché sono stati bloccati, diciamo la verità, adesso oggi magari usciranno fuori altri positivi, come sono usciti fuori altri positivi del Genoa, ma non è che il Genoa ha messo in discussione la partita di Napoli, cioè la partita che ha giocato a Napoli, per cui oggi il fatto che escano fuori magari, e non ce lo auguriamo, altri positivi nel Napoli non significa assolutamente nulla, perché qualcuno dirà ecco, avevamo ragione noi, vedete, abbiamo evitato altri contagi. È una stupidaggine questa roba qua. Sono d'accordo con te, non è la guerra sul contagio Assolutamente no, io non dico che bisogna fare altre regole, io dico che bisogna ribadire queste. Ho capito, ma queste che cosa prevedono? Non si capisce se l'ASL può intervenire, è finita, se può mettere per 15 giorni in quarantena, perché allora se è questa la situazione bisogna fare chiarezza su questo punto. Il calcio non è che vuole godere di un privilegio. Si è deciso però con l'avallo del Ministero della Sanità che fino a 10 giocatori con continui controlli, col CTS, con continui controlli, i giocatori potevano partire, trasferirsi, non andare a ballare, giocare una partita di calcio e blindati in un autobus, infatti, eccetera eccetera. Allora, infatti, l'anomalia è che un organo locale come un ASL per definizione locale, sì, abbia in qualche modo smentito o comunque con la sua presa di posizione abbia portato a mettere in discussione una decisione che non era stata presa dal mondo del calcio da solo. Esatto. No, ma appunto, riuniti d'Alpino e i presidenti hanno deciso la prospettiva si sposta anche sul futuro. Allora, a corollario di tutto questo, vi faccio sentire le ultime parole uscite dal mondo della politica di questa mattina della sottosegretario Sandra Zampa. Sono queste. Sì. Spettacolo, è stato veramente una cosa penosa, ecco, a dire poco. Ieri è stata semplicemente applicata una legge, perché la discussione che riguarda se l'ASL aveva titolo o non aveva titolo, l'ASL aveva titolo perché lo dice il protocollo primo, secondo, al di là del protocollo c'è una legge. Ma questa è la presa di posizione del sottosegretario Zampa, che una volta ebbe a dire, poi smentendosi non so che cosa sul campionato, che non può continuare, non si può giocare un campionato in pandemia. Questa cosa ridicola, dei positivi non possono giocare, questo mi sembra abbastanza palese. Questa cosa ridicola, per cui, che ha detto anche Speranza, che il calcio non è importante, non parliamo del calcio come la scuola, è una, posso dirlo, una stronzata galattica. L'ho detto bene, benissimo, l'ho detto benissimo Pier prima, utilizzando non la parola stronzata ma altre parole, e che è questo: il calcio ha un peso nella società che è simile a quello di altre attività, persino quelle culturali. Per cui basta con questa stupidaggine che il calcio appartiene ad un mondo, capito, di diseredati, disadattati, appassionati e anche un po' malati, ed appartiene al mondo, come dire, ludico, ad un mondo di cui alla fine si può fare a meno, perché non è così. Non sono tutti cazzari. No, ma non è così, nella realtà non è così. Perché ci si concentri su una cosa, innanzitutto sul fatto che i giocatori, per il fatto che sono controllati, per il fatto che sono molto giovani, non c'è stato un caso grave, per fortuna, di giocatore ricoverato in Italia. Questo è il punto. Grave, sto dicendo, grave. Ricoverato in Italia. Ma al di là di questo, della mia posizione sulla pericolosità o meno per quello che riguarda i giocatori, c'è un fatto molto semplice. Se una ASL blocca per 15 giorni un'intera squadra, è evidente che non si potrà mai andare avanti da nessuna parte. Se la ASL di Napoli applicasse lo stesso criterio tra 10 giorni alla vigilia di una trasferta del Napoli in Europa League. Bravo. In Europa League si pone un problema che non è più italiano, leggi, si pone titolo, un problema che Giuseppe, è europeo. Allora, il titolo del giornale, le dichiarazioni dell'AS di Napoli sono queste: tutte dovrebbero fare come noi, se si ripresenta un caso di giocatore positivo da qui a tutti a casa a poi, per 15 giorni. Allora tutti Napoli verrà ribloccato un'altra volta, no? Ma se loro vogliono continuare, lo dicessero al comitato tecnico scientifico, perché ripeto, cioè qui la cosa assurda di questa vicenda è che non è che questo protocollo è stato vidimato dalla Lega, esatto, di Serie A con i presidenti. Sì, però Spadafora su questa cosa qua è ambiguo, perché Spadafora dice sì al protocollo, va bene, manteniamolo, e però l'ASL ha competenza. Queste due cose sono in contraddizione, cioè mi pare abbastanza evidente. Allora sì, siccome il ministro dello sport non è che né Carlo Genta né Pierluigi Pardo né Giuseppe Cruciani, che siamo qui alla radio, e allora facesse chiarezza con se stesso, con la politica, con qualcuno, perché altrimenti si arriva alla stessa situazione. Qui c'è un organo importante, non sto dicendo che l'ASL di Napoli sono dei cazzari, per carità, cioè sono delle persone che agiscono, diciamo vogliamo, sulla base di loro convinzioni. Se agiscono sulla base delle convinzioni che riguardano la salute pubblica e bloccano 15 un'intera squadra perché non hanno rispettato le regole loro, non lo so, bloccano un'intera squadra per 15 giorni dentro un albergo, dentro un ritiro, questa cosa qui chiude le attività sportive, in particolare il campionato italiano, e non solo. Questo è il punto. Spadafora su questo è ambiguo, si chiarisca. Allora, non c'è dubbio. Fammi fare una cosa. Vai, velocissimo, poi devo fermarmi un attimo per ragioni di pubblicitarie, e poi abbiamo già tre ascoltatori con cui vorrei parlare. Quindi, Marino, non c'è Marino? Dov'è Marino? Dopo di me. Va bene, andiamo, vai e ripartiamo, dai. Vado e ripartiamo. tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Piero, replica, poi vado da Antonio da Napoli. No, sì, no, io volevo fare un piccolo discorso di 5 secondi proprio sul... siccome poi dietro c'è molta malizia, no? Molte voci. Secondo me in generale, poi è chiaro che è stata una settimana complicata per i giocatori del Napoli e questo non è un dettaglio. Il Napoli sta molto bene dal punto di vista della condizione fisica, quindi io voglio, da questo punto di vista mi sforzo di volare alto e vorrei evitare che diventasse una discussione, come immagino che sia, fra Juve, Napoli, il 3-0, le inconvenienze. Secondo me il Napoli in questo momento, numeri alla mano dopo le prime due giornate, era in una condizione molto positiva per andare a Torino. Poi è ovvio che quello che è successo in settimana, l'infortunio di Insigne, Zielinski, è sicuramente una settimana complicata dal punto di vista dei controlli, delle paure, delle ansie, stiamo parlando di esseri umani, questo complicava le cose, ma io, ecco, dal punto di vista della convenienza non credo che né la Juve né il Napoli avessero convenienza a non giocare questa partita, quindi non lo so. Fatto sta che chiaro che De Laurentiis aveva chiesto a Danielli e alla Lega di rinviarla, quindi voglio sperare, lo dico sinceramente, voglio sperare che l'avesse chiesto per un discorso di preoccupazione sincera sul fatto che si potesse ripetere una situazione focolaio tipo quella del Genoa e non dal punto di vista tecnico, anche perché ripeto, dal punto di vista tecnico, per le prime due giornate il Napoli è stato sicuramente più convincente della Juve. Però scusami Pier, anche questo però è un argomento debole, perché ora non è compito dell'ASL di Napoli immaginare l'esistenza di un cluster, viene chiamato così, no, di infezione, quando questo cluster di infezione in realtà non c'è. Cioè, allora, o crediamo a questi tamponi, cioè, o crediamo al fatto, alla procedura dei tamponi messa in campo, diciamo, dalle autorità e dalla Federcalcio, oppure non ci crediamo e pensiamo invece che ci sia, come dire, andiamo tipo con la palla di vetro e dire siccome ci sono stati due infetti. Il problema dei tamponi l'abbiamo visto col Genoa, il problema dei tamponi non è colpa di nessuno, ma ho capito, tu fai un tampone, magari ti stai positivizzando, ti dà ancora negativo, d'accordo, ma questo lo sappiamo sin dall'inizio, capito, ma tu non puoi bloccare una squadra soprattutto bloccare gente negativa. Io sono d'accordo, attenzione, chiariamoci, secondo me è stato violato il protocollo, era stato fatto due giorni prima e non andava violato, questo è il punto di partenza del mio ragionamento, altrimenti non ci capiamo. Secondo me questa cosa qui è sacrosanta. Ok, è stato violato, quindi però vedrà che si arriverà comunque alla ripetizione. Nessuno vuole il 3-0 della Juventus, Juventus stessa se ne fotte di avere il 3-0, però si aprono delle prospettive. Qualcuno mi ha fatto notare, non so se anche voi l'avete notato, che recuperare la partita Juventus-Napoli è un casino col calendario. È un casino terribile, si comincia così, allora già ci mettiamo l'anima in pace, non finirà nulla, poi per carità, magari non finisce nulla perché saremo travolti, speriamo di no, la terra non esisterà più, d'accordo, però ragazzi, se dobbiamo far rotolare il pallone, a passare sabato, domenica, mercoledì a guardare il gioco del calcio, a guadagnare tutti quelli protagonisti, a guadagnare gli spettatori, il divertimento e tutto, dobbiamo fare un compromesso. Questo compromesso è stato violato. Fammi sentire gli ascoltatori. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Volevo ribadire, però in parte mi avete già anticipato, che l'ASL è intervenuta per i contagiati del Genova. Cioè, voglio dire, ci sono stati un focolaio di 22 giocatori nel Genova e Napoli aveva disputato una settimana prima la partita, per cui l'ASL, nell'occasione importante di questo focolaio, è intervenuta a non far partire il Napoli per una questione di sicurezza, anche per non farli viaggiare. Quindi, ma ci sono i tamponi fatti dopo, ci sono i tamponi effettuati dopo, o ci crediamo o non ci crediamo. Non ci crediamo, ragazzi, questa è la cosa, questa è la sostanza. Cioè, il tema è più grande di noi ed è un tema di diagnostica. È chiaro che se si dovesse ripetere anche solo 5 volte durante l'anno quello che è successo col Genoa, e quindi parti da 2, poi arrivi a 14 e nel giro di 4 giorni è arrivato a 20 positivi, è chiaro che cambia tutto e si rischia un effetto di positivizzazione, quasi effetto domino, no? La squadra X gioca con la squadra Y, finisce per infettare qualcuno la squadra Y, però, che poi gioca con la squadra Z, cioè così non usciamo però vivi. Posso però dirti, questo è un tema di diagnostica. No, ma infatti, allora posso dirti una cosa, allora anche rispondendo all'ascoltatore, il punto è questo: o noi ci diamo delle norme che chiaramente sono fallibili, perché è evidente che la norma applicata sul Genoa è fallibile. Probabilmente in campo a Napoli c'erano giocatori del Genoa positivi, giusto? Cioè, questo mi pare abbastanza evidente, o comunque in via di positività, cioè la positività era in corso, ma quello può succedere anche a giocatori che sono negativi, che sono testati negativi, può succedere comunque, e per cui non ci sarà mai un metodo che ti ha detto che Zilinski e Elmas abbiano preso il Covid da un'altra parte. Esatto, non è detto che l'abbiano preso dai giocatori del Genoa, per cui il problema fondamentale è sicuramente quello di mettere i giocatori in una bolla, ma quello fa parte delle regole delle singole squadre e delle regole di responsabilità dei singoli giocatori, che devono evitare il più possibile contatti eccetera eccetera, ma quello riguarda tutti. Dall'altro, il fatto che non ci sarà mai alcun metodo che ti assicura la certezza che campo va uno negativo in assoluto, ma quello è chiaro. È un atto di fede, ragazzi, è un atto di fede che non è molto diverso da quello che facciamo tutti noi, abbiamo fatto tutti noi in queste settimane, andando al ristorante, cercando ovviamente di rispettare le distanze, con le mascherine, con tutte le situazioni, ma fa parte della vita. Poi si può discutere, ripeto, io credo che mai come in questa situazione veramente lo scenario può cambiare da un giorno all'altro, è lo scenario della convivenza, il lockdown di nuovo, perché evidentemente la situazione è peggiorata. Ci vuole da questo punto di vista grande elasticità, però è chiaro che se tu devi riprovare a mettere in piedi un'idea di campionato e di stagione sportiva, perché ha un valore, per tutti i motivi che abbiamo detto prima, devi trovare delle regole. Queste regole sono quelle del protocollo, il protocollo è stato approvato, così come i ristoratori si sono dati delle regole, così come nelle stazioni mettono il plexiglass, così come Parla di convivenza con il virus. Galliani, che non è l'ultimo degli arrivati, considero sempre uno dei, diciamo, il top della dirigenza sportiva, ha detto: se vogliamo il bene del calcio dobbiamo applicare le normative UEFA. Se hai 13 giocatori devi giocare, bisogna mettere da parte gli egoismi, altrimenti crolla tutto. Se ogni volta che ci sono uno o due giocatori positivi non si gioca, il campionato è a rischio. Allora la questione è questa, vi faccio un piccolo esempio che riguarda me, cioè le mie passioni, ma che può essere applicato anche all'Italia tranquillamente. Nel football americano l'altro giorno è stato positivo un quarterback titolare di una squadra. Il quarterback titolare di una squadra conta il 50%, al contrario del singolo giocatore di una squadra di pallone. La squadra tutta negativa ha giocato lo stesso, nessuno ha protestato dicendo cazzo questa partita la perderemo, e hanno perso quella partita lì, perché è evidente che in questa situazione eccezionale puoi avere la sfiga, come ha avuto il Genoa, di 6-7 giocatori positivi. Il Paris Saint-Germain ha perso le prime due partite, ha perso le prime due partite, campionato lo stesso, però comunque ha perso dei punti che potrebbero essere pesanti, li ha persi perché aveva un certo punto 8 giocatori positivi. Il Milan ha rischiato di uscire dall'Europa League, che comunque porta soldi, visibilità, e ci teneva particolarmente, come giusto che sia, perché ha giocato contro il Rio Ave senza Ibrahimovic, e diciamo la verità, una partita il Rio Ave con Ibrahimovic ne faceva 2-3, diciamo così, allora, sulla carta, no? Allora fatemi sentire Leonardo da Bari, buongiorno. Buongiorno, faccio il medico, buongiorno. Buongiorno. Io non entro nel specifico, però la sanità in Italia è regionale, le autorità regionali sono al di sopra di ogni autorità, anche quella nazionale. I protocolli non hanno nessun valore a livello, il Napoli ha ragione da vendere. Io non posso fare niente davanti all'autorità sanitaria, a meno che i protocolli non li faccia Patafora, Speranza e le autorità regionali, che sono quelle. Non lo dico ma infatti io, tutti si sono adeguati nei mesi scorsi. Le autorità regionali della Lombardia non hanno impedito al Milan di uscire dalla Lombardia. Quella della Campania no. Allora, quello della Campania, bisogna Campania vedere perché la Puglia appunto fanno in maniera diversa. Il problema la Puglia è ancora della non conferenza si sa. Allora, se mi permette di dare una soluzione, un'idea, quale sarebbe? È la conferenza Stato-Regione, che è il posto dove le regioni parlano con lo Stato, con Padafore, con ma la lo sapevano già, lo sapevano già. Ma non è che l'ascoltatore ha ragione, perché ci riporta a un elemento formale che secondo me è importante. Cioè, ma sì, certo. Però voglio dire, perché questo cambia secondo me anche il livello, diciamo, tra virgolette, di responsabilità o di difendibilità, se preferisci, della posizione del Napoli. Cioè il Napoli si è trovato di fronte a un cioè non è che Giuseppino che gli ha detto guarda non puoi andare. C'è stata una presa di posizione che ha un suo valore. Il problema è che qualche giorno prima in quel tavolo lì c'erano i responsabili del comitato tecnico scientifico, cioè la politica c'era lì, e quindi in quel momento è stato stabilito il principio che si che le regole fossero quelle. L'ascoltatore dice però chiamiamo al tavolo anche le ASL, però a quel punto nel momento nel quale il governo avalla un provvedimento come quello del protocollo che poi c'è in tutta Europa e il comitato tecnico scientifico partecipa a quella discussione lì, è ovvio che il mondo della scienza e della sanità e della salute pubblica è d'accordo. Il problema è che poi la singola ASL, se può intervenire e scavalcare il punto di vista dell'organo centrale di salute pubblica, si ricomincia a capo. Tutto questo, ovviamente, tutto questo se vogliamo pensare, e mi sembra che qui la discussione sia razionale, diciamo, tutto questo se vogliamo pensare che l'intervento dell'ASL sia un intervento in punta di diritto e non per altri motivi. Cioè, sempre questo stiamo dicendo. Perché poi, sai, cioè, siccome si fanno i cattivi pensieri su altre situazioni, i cattivi pensieri vengono perché come mai proprio quella ASL lì fa un intervento di questo tipo per proteggere la salute pubblica o dietro c'è qualcos'altro? È legittimo anche porsi questa cosa qua, perché non è che le persone si muovono sempre in totale autonomia. C'è magari una pressione che viene, ma anche solo per marcare un punto. Qui in Campania si fa come diciamo noi. Per quello che io sto parlando sempre non del Napoli Calcio, sto parlando sempre della questione politica regionale che ha deciso questa cosa, perché l'ASL dipende dalla regione e la regione dipende da un signore che si chiama De Luca. Allora io dico, se è questo il punto, cioè marcare una differenza, noi in Campania siamo più rigidi, applichiamo le nostre regole e ci fanno dire che Napoli deve stare fermo, chiuso 14 giorni perché magari non hanno applicato bene la bolla, eccetera. Da qui alla fine della stagione. Vabbè, grazie ragazzi. Sì, volevo dire una cosa, posso dire una cosa? Un minuto? Vai. Allora, la clausola compromissoria, per chi non lo sapesse, è un tipo di regola e di impostazione filosofica che fa sì che su determinate controversie, ad esempio gli infortuni nel mondo del calcio, con un accordo fiduciario fra tutti i soggetti si decide di non andare per esempio dalla giustizia ordinaria. Però diciamo perché questo lo sport, no, però questo è un esempio classico, cioè lo sport vive di sue regole, nel momento nel quale viene firmato un protocollo, ovviamente non da soli come degli irresponsabili, ma da persone che poi hanno parlato con il governo, hanno parlato con il comitato tecnico scientifico, poi quella roba lì deve essere rispettata. Quindi io mi auguro che nelle prossime ore venga ribadito questo concetto, con la possibilità ovviamente in qualsiasi momento di cambiare, perché siamo tutti nelle mani di chi ci crede, di Dio o del caso, di quello che volete, e del virus. Quindi è ovvio che poi la situazione può cambiare da un momento all'altro, ma se noi non rispettiamo questa regola base non c'è nessuna possibilità che la stagione vada avanti. Aggiungo una cosa velocissima: in paesi dove oggi, non ieri, oggi ci sono numeri di contagi, sempre se dobbiamo credere a questo numero di contagi, ma comunque un numero di contagi nettamente superiore, è una situazione con vari lockdown, stiamo parlando di Gran Bretagna e Francia. Il calcio non si è fermato, non c'è stato alcun caso di squadra. Liverpool ha giocato con la Aston Villa, ha preso 7 gol. Con quanti assenti causa Covid? 3-4? Uh-huh. Mané e altri 2-3, se non sbaglio. Mané di sicuro non lo so. Nessuna ASL di Liverpool ha bloccato il Liverpool per andare a Birmingham. Cioè, capisci qual è? Perché in Europa le regole sono quelle. Allora, l'ASL di Napoli vuole andare contro le regole dell'UEFA, va benissimo, per carità, inchiniamoci all'ASL di Napoli, che ti devo dire? Io credo che il Napoli in quel caso non giocherebbe più una partita di europea. Ma è chiaro che ci sarà un altro stagioni. Positivo in tutte le squadre prima o poi, è evidente, speriamo di no, ma è evidente che è così, no? Con Napoli controlli continui, soprattutto perché ci sono controlli continui. Allora, grazie a tutti, Borsa, ciao. Torniamo, ciao. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Lei sta coi grandi e non frequenta. Io ho come il sospetto che il direttore artistico abbia scelto le male lingue di Ivan Graziani sapendo che c'è qui con me Giuseppe Cruciani. Sono rimasto, sì. No, assolutamente, guarda. Anzi, mi inchino davanti alla franchezza di Giuseppe Cruciani. Ciao, mio idolo, ciao, ciao, radiofonico Marino. Quasi quanto Leo Turrini, il Wirbu Smith di Sassuolo, è il mio idolo letterario. Maledette male lingue perché, come giustamente è stato fatto notare prima, si muove la fantasia attorno a questo presunto rispetto delle regole da parte di tutti. Allora proviamo a reprimere la voglia di essere delle malelingue, dai. E comunque gloria a Ivan Graziani, che oggi compie 75 anni e che andrebbe ricordato molto di più di quanto non facciamo. Io non so se Leo Turrini avrà voglia di legare la sua mala lingua. Ma io sono come sempre in coda, sono appena Cormano. E certamente il bravissimo conduttore di questa trasmissione, anche in omaggio al maestro Cruciani, intende chiedermi come mai sono in corso. Come mai? Perché la notizia che Nainggolan è rimasto all'Inter, tutte le bande musicali di rap e di trap si stanno convogliando verso Piano Gentile, perché fra lui e Vidal è facile immaginare che ci saranno serate scoppiettanti. Eccoci qui, hai capito, a proposito di male lingue. Qual è il problema? Juventus-Napoli, il tavolino, 3-0, la rava, la fava. No, guarda, io dico una cosa a prescindere da ogni considerazione sanitaria, legale, regolamentare. Forse un errore da parte di chiunque immaginare che ci appartenga ancora la normalità di una volta. E francamente mi capita di rado, ma nell'intervista di oggi del ministro Spadafora al Corriere della Sera c'è un passaggio che io condivido, dove dice che forse tutto lo sport, non solo il calcio, non solo in Italia, farebbe bene a premunirsi di un piano B, perché noi non sappiamo bene che cosa ci aspetta. Un piano B, ad esempio, è quello di immaginare i play-off o soluzioni che consentano, con un po' di originalità, di convivere con questa situazione. Ecco, questo sì, questo sì. Sei d'accordo, Giuseppe? No. No. Cioè, nel senso che non è che non sono d'accordo sul fatto che bisogna avere dei piani B. I piani B ci saranno. La situazione a giugno, anzi tra marzo e giugno, credo che sia stata gestita da Gravina ottimamente, voto 10 per chi è abituato a dare i voti. Tutti erano scettici, il campionato è ripreso, certo la situazione dei contagi non era drammatica a un certo punto. Detto questo, la normalità non c'è, ha ragione Turrini, certo che non c'è la normalità. Poi non è questione di filosofia adesso, è questione di gestire il presente. Gestire il presente significa gestire una situazione di emergenza, una situazione in cui non ci sono gli spettatori, in cui può succedere che una squadra abbia dei positivi. La maggior parte, nel 99%, anzi nel 100% dei giocatori in questo caso sono asintomatici. E in altri sport, in altri continenti, dopo 10 giorni si torna a giocare a prescindere dal tampone. Cioè, bisogna avere delle regole che siano flessibili, sempre con attenzione alla salute, per carità, ma sembra una frase banale dirla. Chi è che non è attento alla salute pubblica? E i giocatori sono i primi a essere attenti, sono sorvegliati, sono controllati, tendenzialmente fanno una vita, almeno a parte forse i casi citati prima da Turrini, fanno una vita che dovrebbe essere regolata, famiglie, bolle, eccetera. E ragazzi, cioè, questo è, e se vogliamo fermare tutto per 2-3 positivi a squadra è finito tutto. Cioè, poi alla fine bisogna essere un po'. Io voglio sentire un ascoltatore che è Ernesto da Napoli. No, buongiorno. Buongiorno, dica. Buongiorno, a parte complimenti per la trasmissione a tutti quanti, anche a Cruciani che lo adoro, però io volevo fare un paio di precisazioni, perché praticamente si sono dette più di un'inesattezza. Allora, Cruciani faceva il confronto perché a Liverpool ha giocato e praticamente il Napoli no, perché l'altro di Liverpool non ha bloccati. Forse Cruciani non sa che il nostro sistema sanitario purtroppo dipende dalle regioni. Ma, sì, ma non è che l'ha inventato De Luca ieri. Figuriamoci, cioè, se non lo sappiamo. Quindi, amico mio, siamo provvisti, di Costituzione, siamo provvisti. Ma siamo provvisti perché al di là delle questioni regionali, in altri paesi questo groviglio, tu sei una persona intelligente, però non devi girare intorno a questo punto. Purtroppo la Costituzione non l'abbiamo scritta io e te, l'hanno scritto all'estero, l'ordinamento è diverso, lo sappiamo. Al di là dei grovigli, questo lo sappiamo. c'è un fatto, chissà perché queste cose accadono solo in Italia, cioè certi grovigli burocratici, chi ha competenza, chi non ha competenze, allora il protocollo fatto dal Ministero della Sanità però fatto salvo l'intervento di questo, e l'ASL che dice no, noi siamo competenti per la salute pubblica, per carità, va tutto bene, tutta roba di pandette, di carte, di burocrazia eccetera, però è noiosa questa roba qua, è estremamente, poi va bene per i ricorsi, va bene per gli avvocati, va benissimo, per carità, va bene per qualche piccola polemica, la facciamo anche noi, ci divertiamo. Detto questo, perché in altri campionati si gioca e non c'è un ente che blocca tutto dicendo questi non possono viaggiare? Ci sarà un motivo, no? Il motivo è che è l'Italia, questo è, Marino, dammi ragione su questo, è l'Italia. Io vado pazzo. Io ti do ragione a prescindere, a parte che io sto guardando una cosa fondamentale che è il match Podorowska-Svitolina, in attesa che si giochi la partita di Sinner, quindi non distraetemi più di tanto. No, per carità, per carità. Hai ragione, Giuseppe, in una cosa. Allora, ci devono essere le regole devono essere più perimetrate possibili. Poi naturalmente ci vuole qualcuno che abbia la buona volontà di adeguarsi a queste regole. Il richiamo prima di Pierluigi alla clausola compromissoria, o come diavolo la vogliamo chiamare, secondo me è corretto, Non so se parliamo di clausola compromissoria in questo caso, ma perché no? Io ho giurato che non avrei mai usato la mia laurea in giurisprudenza. Però ti faccio un esempio, guarda, che potrebbe non sembrare nulla. Al Circolo Tennis Parioli di Roma, anche nei momenti in cui ci si presentava in campo, lo ricorderete, con le magliette gialle, verdi, rosse, a pallini, a pois, diceva qui dentro si gioca soltanto con la maglietta bianca. E questo accadeva anche a Wimbledon, se per questo. No? Allora, chi non lo fa non gioca al Circolo Tennis Parioli. Ecco, allora bisogna essere pronti ad adeguarsi anche, come dire, a degli interventi esterni forti, per quanto legittimi, per quanto tutelanti, perché comunque noi dobbiamo intraprendere una strada di forza, di coraggio, di buona volontà, di disciplina e di lealtà all'interno di questo movimento. Dopodiché è difficile dare torto al Napoli quando il Napoli dice la AUSL mi ha ordinato di fare. Ovviamente è ancora meno difficile dar torto alla Juventus che si è presentata regolarmente in campo, però ripeto, o c'è un binario di coerenza totale che ci allinea all'Europa, oppure resteremo italiani con tutti i pregi, i difetti, le meraviglie per tutta la vita. Allora, io adesso ti saluto, Giuseppe. Ciao, ciao ragazzi, ciao, mando Marino, il traffico. Ciao, io voglio il voto di Cruciani a quello che ho detto, però. No, ma la questione della clausola compromissoria va bene, qui abbiamo a che fare però con una l'ho chiamata così, Giuseppe. No, capito? Sì, per ma il calcio si autoregola, va benissimo, cioè se tutte le parti del calcio si mettono d'accordo su una cosa, quella cosa va osservata e siamo d'accordo. In questo caso però c'è qualcosa in più, non è che il calcio può andare contro alcuni principi fondamentali. In questo caso c'era l'avallo del Ministero della Salute, dopodiché poi se l'ASL è superiore al Ministero della Salute, se il ministro dice no, però c'è pure l'ASL, si entra in un conflitto interminabile che può portare, a livello regionale lo è, a livello regionale sì, certamente, siamo a livello, diciamo, però non sono di Pulcinella, nel senso che di un paese in cui c'è il ministero che dice una cosa, però poi se l'ASL dice il contrario va bene quello che dice l'ASL o non va bene, cioè, capisci che è una situazione bizzarra. Vabbè, dai, ciao ragazzi, ciao. Traffico, a tra poco torniamo col Barduro. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Convocati. Io ci terrei a girare a Leo Turrini questo messaggio in francese che ho già fatto leggere all'ex qui presente. Cazzo, Genta, è la mezz'ora di Barture e ci rompi i maroni con Cruciani. No, io devo dire una roba, mi sono commosso sentendo Marino che parlava così forbito perché c'era il grande Cruciani della Zanzara, hai capito? Perché di solito Marino quando interviene a queste cose, memore della nostra età veneranda, mia e sua, no? Si lascia un po' andare al cazzeggio. Invece hai ascoltato, prima parlava clausola compromissoria, queste robe qui. Io mi sono sentito anche un po' a disagio perché sono troppo piccolo per queste cose. Vorrei dire una banalità. In realtà in questa vicenda di Juventus-Napoli la cosa che viene fuori è che non ha torto nessuno. Cioè il Napoli si è trovato in una condizione determinata dalle sue autorità territoriali della sanità e la Juventus ha rispettato quelle che sono le indicazioni del mondo calcio, del sistema calcio in generale. Quindi è molto molto difficile. Io ne uscirei con una proposta da interista, cioè si dà la sconfitta a Torino 0-3 ad entrambe. Ecco. Certo. Così troviamo lo spirito del Bartolo. Ma sai cos'è? 3-0, lasciamelo dire, a nome di Bartoletti, che prima era tutto compito, clausola compromissoria, queste cose. Il caro vecchio Marino si è emozionato a cospetto di un grande della radio come Cruciani, ma c'è da capire, no, perché qualche dubbio lo ce l'ho e me lo tengo in proposito. Anziani, io e Marino, no, più altro credo che senta la nostalgia della signora Carapazza, perché quest'anno sai cos'è, c'è il Giro d'Italia, appunto. E Marino parla tutti i giorni, questo ci interessa dato che era Juve Napoli. Marino commenta la tappa, ha fatto una piccola rivelazione, con Maurizio Sarri. Ora Marino, cosa aspetti a farci sapere che cosa pensa Sarri del caso Juve-Napoli e più in generale di tutto quanto sta avvenendo sotto il cielo del nostro campionato? Ecco, fallo adesso che Cruciani è tornato in redazione alla Zanzara e sei di nuovo libero dalla clausola compromissoria. Marino, fallo per me, per gli ascoltatori e i frequentatori. Bartù, te ne prego, grazie. Guarda che sta montando un altro giovane atleta ecuadoriano nel Giro d'Italia. Che ha cognato molto più giovane di quello di Carapazza, eh? Lo so, tu sei molto amico della cugina di questo Calcedo, Se sapete ieri sull'Etna. Vecchio birbaccione, ti piacciono sudamericane, chissà perché, Ma cosa dice Maurizio Sarri del Giro d'Italia, Sarri, tanto per cominciare? In tutta onestà è un po' che non lo sento Maurizio, devo dire, perché credo che preferisca essere lasciato tranquillo, e poi sarà anche lui concentrato naturalmente sull'esploit di Nibali, che tutti ci ha rapito ieri. Il grande vecchio si ritrova in testa alla classifica virtuale dei favoriti, Thomas si è ritirato, aperta chiusa parentesi. Sì, aperta chiusa parentesi, ma neanche tanto, perché Yates è staccato e lo squalo può avere qualche sogno insieme a tutti noi. Intanto ci prepariamo dopo un meraviglioso weekend senza Formula 1 e anche senza weekend. Meraviglioso concluso dalla partita che non c'era. Adesso però ci tocca ritornare al tornio a soffrire. Beh, tra l'altro si corre al Nürburgring, che non è più quello della leggenda, 22 km rotti. Non è il tracciato che quasi costò la vita a Niki Lauda, però io ci sono andato tante volte, è veramente un tempio della velocità dei motori, e per inciso avremo il debutto ufficiale in Formula 1 venerdì mattina nelle prove libere di Mick Schumacher al volante dell'Alfa Romeo. Finora ha fatto solo dei test privati, stavolta sarà insieme a tutti gli altri, insieme a Vettel, a Leclerc, ad Hamilton, e sarà da un punto di vista anche emozionale un momento molto particolare. Io lo dico sempre, immagino come sarebbe bello se, tornando a casa dal Nürburgring, questo ragazzo avesse la possibilità di sentire i complimenti dalla voce del suo papà. Purtroppo non è così, ma abbiamo sempre nel fondo del cuore una speranza che un giorno arrivi una notizia che aspettiamo da tanto troppo tempo. Mi sa che quelle prove libere le guardiamo, le guarda anche Marino. Poi adesso guardiamo Sinner sì, con grande trepidazione, guarda, addirittura con un po' di fiducia, perché in fondo non ha nulla da perdere, quindi se mette in campo la sua sfacciataggine, supera l'emozione che secondo me non ha, che poi vinca o non vinca, probabilmente non vince, però la strada tracciata è quella per arrivare intanto fra i primi 50. Posso dire, per me su Sinner Nadal dipende tutto dalla clausola compromissoria che prima Marino ha evocato con Cruciani, no? Io non ho ben capito il concetto, ma adesso mi metto anch'io a guardare Tinder, forse ci arrivi in fondo. Sta roba della cosa compromissoria mi ha cambiato la vita, la giornata, il pomeriggio, sono emozionato. E io prometto solennemente di non invitare più Cruciani alla Bartur, così non rompi marrone a nessuno. Lasciami solo dire in due secondi che al Nürburgring è il posto più bello, al di là della foresta, dove sicuramente Foron Karajan ebbe a dire: nessuno strumento potrà mai riprodurre la musica del motore della Ferrari. Poi arrivò la clausola compromissoria, ma soprattutto arrivò questa Ferrari, mio caro. Grazie davvero anche a Gianmarco Ferronato in regia, Lorenzo Nespoli in redazione. Domani tutti convocati alle 2, ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ci vediamo domani, enjoy. Saluti!